No, abito a Firenze da pochissimo, da 10 giorni, perché prima abitavo a Prato, dove sopra Chincaleri, e poi per 10 anni, e adesso invece mi sono ritrasferito a Firenze, ma Firenze è molto vicina a Prato, sono tipo 12 chilometri, quindi è come se fossero la stessa città. Solamente sono due città diverse, Prato è una città industriale, quindi ci sono moltissime vecchie fabbriche e ci sono degli spazi molto grandi. E infatti con Chincaleri circa 12 anni fa abbiamo trovato questo capannone, questa vecchia fabbrica dove abbiamo fatto la sede e quindi adesso abbiamo gli uffici e lo spazio prova e magazzino, insomma, dove poi organizziamo cose o facciamo le prove o lavoriamo. E niente, che dire? No, io vabbè, mi chiamo Marco e faccio parte di Chincaleri, che è un collettivo di artisti basato in Italia e lavoriamo da 15 anni insieme, quindi abbiamo fatto tante tante cose e una delle nostre caratteristiche è anche questa trasversalità dei segni, perché nel collettivo fanno parte persone che vengono da tutti gli ambienti molto diversi. Quindi all'inizio c'erano alcuni danzatori, alcuni attori, architetti, però il nostro lavoro non è mai stato fatto in una maniera specifica, nel senso che io non mi sono mai occupato solo di danza, ma essendo molto curioso e curiosi un po' tutti, abbiamo sempre cercato di occuparci di tutto quello che comportava il lavoro di Chincaleri, quindi appunto anche dall'organizzazione, al montaggio, alla distribuzione e questo ha fatto sì che proprio il nostro lavoro trovasse ogni volta delle connotazioni anche molto diverse, sia sulla scena ma anche fuori dalla scena. E quindi, come dicevo, una delle caratteristiche sono anche questi lavori molto diversi l'uno dall'altro, perché a ogni progetto c'è sempre come dire, una ricerca che mettiamo in atto per individuare il linguaggio migliore per poter dire quella cosa o di quello che dobbiamo parlare. E quindi questo negli anni ha destabilizzato molto il mercato, soprattutto quello italiano, dove invece la necessità di individuare che cosa fai è sempre stato molto importante, se appartenevi alla danza o al teatro, alla performance, alle arti visive. E quindi inizialmente era proprio una cosa difficile perché una volta facevi una produzione dove lavoravi moltissimo con il movimento per gli altri, perché poi per te in realtà la tua riflessione non era solo sul movimento, però il movimento diventava magari l'elemento principale di quello spettacolo. E la volta successiva invece il movimento non era più il centro o la cosa più particolare. Quindi chi ti programmava all'interno della danza poi non capiva perché tu in realtà non facevi più danza. E quindi questa cosa per un po' di anni ha destabilizzato molto. Poi c'è stato un momento dove invece tutto sembrava che fosse un po' passato, che si comprendesse la necessità di spostare sempre l'attenzione. E invece negli ultimi anni, siccome è tutto ritornato molto tradizionale, in Italia almeno respiri molto questo ritorno ha un senso un po' più classico, fra virgolette, anche del teatro, della danza, questa cosa continua a non essere proprio compresa fino in fondo. E niente, queste sono, diciamo, le cose basi appunto di Chincaleri e ¿Y dónde, Quincaleri, dónde, en qué tipo de circuito suele estar programado? ¿En un circuito más de danza o en un circuito de teatro? Puesto que hay esta dificultad para aceptar lo que es más transversal Sì, y. guarda, allora Chincaleri fondamentalmente inizialmente era programmato sempre in circuiti da danza, però per molti anni. Poi a un certo momento anche il teatro ha cominciato a interessarsi a noi, però ci vedevano sempre come una compagnia di danza e la danza ci vedeva come una compagnia di performance, di teatro, perché eravamo sempre un po' gli strani, sai, quelli che non avevano mai una collocazione precisa. Adesso negli ultimi anni ci sono alcuni festival in Italia che hanno iniziato a essere sempre più coinvolti dalla performance e quindi la cosa si è un po' stabilizzata. Per esempio, noi collaboriamo molto con Bologna, con la Silvia Fanti, con Xing, oppure su Milano siamo molto legati a Uovo, che è Umberto Angelini, oppure ultimamente c'è anche questo Fabrizio Arcuri, che è un altro direttore, un altro regista, e che dirige dei festival tipo Short Theater a Roma o festival come Sant'Arcangelo in Romagna, che sono tutti festival abbastanza trasversali che programmano sia danza che teatro, performance. E questa cosa insomma ci ha un po' rimesso dentro anche una certa attività, perché poi per esempio le arti visive sono un altro elemento molto importante nel nostro lavoro, perché facciamo anche molte cose all'interno di centri d'arte contemporanea. Però anche lì non abbiamo il mercato dell'arte contemporanea, quindi siamo invitati più come dei performer o come una compagnia che è al limite fra appunto le arti visive e il teatro e quindi via via facciamo appunto progetti. Ora per esempio la prossima settimana quando torno abbiamo una mostra in una galleria d'arte e quindi ci sarà una performance il primo giorno e poi resterà invece una documentazione video di quella performance, rimarrà esposta per un mese. E questo sì, poi per diversi anni abbiamo avuto anche un circuito molto europeo che ci ha permesso anche di, specialmente poi tutti dal 90, diciamo dal 96-97 fino a 2 o 3 anni fa abbiamo girato molto in Europa e quindi siamo passati insomma, abbiamo girato un po' in tutte le città, da Berlino a Lisbona. E siamo stati a Barcellona. A Barcellona abbiamo fatto spettacolo al mercato Mercato dels delle Flores, oppure a Parigi siamo stati molto. Quindi, cioè, diciamo che abbiamo un circuito anche abbastanza internazionale che ci ha permesso appunto di poter portare il nostro lavoro anche a giro. Che in galleria es un colectivo y qué ¿cuáles son los métodos de trabajo? ¿Cómo trabajáis en colectivo? ¿Cómo se trabaja? ¿Y cuántos años lleváis trabajando? Sì, King Caleri lavora da 15 anni insieme e l'abbiamo fondato, anzi adesso qua anche di più perché è al 1996 e inizialmente eravamo in 6 persone, dove ognuno metteva in campo un pensiero rispetto a un progetto e poi di volta in volta parlando e noi passiamo spesso un mese e mezzo solo a parlare del lavoro, quindi per capire che cosa vuoi dire, che cosa vuoi fare, come lo vuoi fare, che immaginario vuoi proporre e poi una volta che hai definito il territorio dove vuoi stare inizi a lavorare. E da 6 che eravamo siamo rimasti in 3. Adesso siamo, diciamo, che 3 sono usciti e hanno preso la loro strada indipendente, insomma, e mentre 3 di noi sono rimasti a lavorare insieme. E appunto, come ti dicevo, il metodo è sempre un po' questo. Quindi qualcuno arriva di noi, porta un progetto. E chiaramente nel momento che lo mette dentro King Caleri, questo progetto si può cambiare tantissimo. Quindi c'è bisogno di una grossa disponibilità a mettersi indietro. Ti metti avanti e poi subito dopo devi ritoglierti un po' perché altrimenti gli altri non riescono ad entrare, perché poi non. Siamo molto diversi e questa è stata una caratteristica forte anche del nostro lavoro. Abbiamo individualmente abbiamo anche idee molto diverse rispetto al teatro, alla visione. E quindi quando poi iniziamo a lavorare insieme dobbiamo ridefinire e trovare una forma che contempla il mio pensiero, ma anche il pensiero dell'altro. Quindi la forma è la stessa, ma quello che ci sta dietro a volte può essere anche molto diverso. Chiaramente, negli ultimi anni ci sono anche delle modalità un po' che sono cambiate un po' perché l'esperienza, perché hai voglia di vedere anche altre cose, quindi a volte ci sono dei progetti che adesso possono essere discussi tutti insieme, però poi magari li porta avanti una o due persone invece di tutti e tre. Però devono sempre essere accettati, cioè non è che io posso un giorno arrivare e dire voglio fare questo. Se qualcuno dice no, non è interessante, non lo posso fare dentro Kincaleri e allora vado a farlo da solo o con un altro. Mentre una volta, ogni volta che si faceva un progetto, tutti dovevano essere veramente insieme, adesso c'è come dire, una possibilità in più di poter anche a volte lasciare andare le cose, quindi farle succedere, anche perché è chiaro che negli anni c'è una conoscenza e c'è una fiducia maggiore rispetto al lavoro di ognuno e quindi è molto più facile sapere cosa vuol dire parlare come Kincaleri o cosa vuol dire parlare come, in mio caso, Marco Mazzoni. Quindi sono delle cose molto chiare che poi ognuno ha nella testa. Cuando hacéis un proyecto con Kincaleri, Sì. es una pregunta que viene un poco de una experiencia también personal con un proyecto también que yo he hecho más en colectivo, tal. Cuando es una persona la que trae la primera propuesta, Sí. la otra, o sea, la gente, los otros participantes, ¿tardan mucho en apropiarse el discurso o en apropiarse, Sí, ¿entiendes? Como certo. la preocupación o la problemática, porque uno siempre cuando viene con con una intención de proyecto es porque hay una problemática, Certo. ¿no? Sì, nel caso di Kincaleri, quando un individuo, uno di noi, propone un progetto un po' più personale, bisogna sempre individuare quanto questo personale va a influenzare il lavoro. Perché diciamo che il lavoro di Kincaleri non può essere un problema personale dei soggetti, perché comunque anche se è un problema mio, per esempio, nel momento che lo metto a disposizione di Kincaleri deve diventare subito anche un soggetto per altri e quindi la mia problematica si sposta subito da me a qualche cosa di più universale, più aperto, perché non può più parlare di me personalmente, ma deve parlare di qualche cosa più generico. E quindi già questo crea una grossa differenza proprio di approccio al lavoro. E chiaramente ci sono delle diversità di tempo, perché ci sono appunto persone che hanno bisogno di comprendere il progetto nel facendolo. C'è chi invece ha bisogno di comprenderlo prima, perché poi sa cosa può fare. Oppure chi non lo sa per niente e deve incominciare a seguire il lavoro e questo però ogni volta cambia abbastanza. Quindi, e è molto diverso, per esempio, io che lavoro a volte anche da solo, non tanto con lo spettacolo, con la performance, più come artista visivo, il lavoro che faccio da solo molte volte è molto più facile per me perché non mi faccio domande. È come se seguissi una sorta di istinto, do molta fiducia al mio istinto e a volte non ho bisogno di chiedermi niente, ma c'ho un desiderio e posso semplicemente boom, buttarlo lì. Con Kincaleri invece io sono sempre costretto a farmi delle domande, perché nel momento che lo metto dentro il gruppo devo essere anche un po' pronto a rispondere a questa cosa. E questo è molto buono, perché è molto positivo, nel senso che ti mette in una condizione continua di studio, di riflessione, di dover analizzare le cose, che poi quando mi scopro da solo diventa tutto estremamente più semplice, però estremamente, come dire, è stato molto utile, perché il fatto di essere comunque allenato all'elaborazione mentale, all'analisi di qualsiasi cosa, poi mi aiuta moltissimo anche nel comprendere eventualmente a posteriori certe cose che posso fare, per esempio, da solo, che hanno magari altre necessità. Mm-hmm. Sì, sì, completamente. Ok. E, espera, che stavas hablando de esto. Claro, o sea, como que el trabajo en colectivo también está todo el tiempo interrogando también, me imagino, como los roles de cada uno, o no, no es el caso en el rol... Più che, allora, il lavoro del collettivo non ha tanto interrogato il ruolo di ognuno, ha molto interrogato la scena. La ricerca di Kincaleri per moltissimi anni è stata proprio sui meccanismi della scena, quindi la rappresentazione, proprio che cosa si può fare, cosa si può vedere, come si può guardare o percepire uno spettacolo. Quindi abbiamo lavorato moltissimo sulla percezione, sulle cose per quello che sono e non per quello che rappresentano. Quindi la rappresentazione è arrivata molto a posteriori. Per molti anni per noi era proprio importante la scena come un campo di domanda, dove tu entravi e ponevi al pubblico delle domande, no, non verbali, però metaforiche, visive, però non è che facevi la dichiarazione «voglio dire questo», ma io pongo una domanda su cosa vuol dire stare in scena, cosa vuol dire fare uno spettacolo, cosa vuol dire proporre degli immaginari. E poi negli anni chiaramente sei andato attraverso altre forme anche rappresentative. Per esempio, 2 anni fa abbiamo iniziato a investigare delle cose anche molto più canoniche, come per esempio l'idea del testo. E sia Ascesa e Caduta, The Rise and Fall, o un altro progetto analogo che si chiama I Am That Am I, che è un altro progetto sul testo, abbiamo deciso di lavorare proprio quasi in opposizioni su 2 testi teatrali molto conosciuti. Uno sono Le Serve di Genet, e l'altro è appunto The Rise and Fall of the City of Mahagoni di Brecht. E abbiamo deciso di stare esattamente dentro il testo per parlare di altro, per parlare della scena, della possibilità dello stare in scena, di che cosa vuol dire essere un attore, recitare, rappresentare. E il primo lavoro, I Am That Am I, è un lavoro di negazione, dove l'attore non esiste, ma esiste solo la voce, la gola, e in scena abbiamo una ventriloqua, una signora di 56 anni che parla, fa le 2 voci delle serve, però senza muovere la bocca. Lei è seduta su una sedia e tutto lo spettacolo è qua, in questa parte, e quindi è come se mettessi veramente il teatro dentro l'unico posto possibile dove la parola in realtà dovrebbe stare. Mentre in opposizione abbiamo preso un altro lavoro come appunto Brecht e l'abbiamo enfatizzato, e Ascesa e Caduta è proprio un lavoro sull'attore, sul one man show, questo attore globale che diventa un tutt'uno con il lavoro. Quindi è chiaro che il tavolo con i pupazzi è una metafora del teatro che però ci ha dato tutte le regole del teatro per poter permettere all'attore, in questo caso io, di muovermi dentro questa sorta di trance, perché io a un certo momento divento veramente tutte quelle figure che ho davanti. E quindi e quello è stato per noi proprio i punti di ricerca fondamentali per affrontare questi due lavori di testo. Quindi, capito, ogni volta è come se individuiamo il soggetto e poi dobbiamo individuare la forma. Adesso, per esempio, che si lavora su un'altra produzione ancora, è tutta sul movimento e quindi è tutta sul codice. Allora abbiamo dovuto ricostruire un codice che abbiamo dato a dei danzatori e che loro a loro volta interpretano e possono appunto parlare proprio nel vero senso della parola. Sí, Muy dai. bien, muy bien. Y has hablado también de tu trabajo fuera de King Caleri, Sí. que está dentro de lo audiovisual o. Sì, allora, il mio lavoro fuori da King Caleri non è molto importante, nel senso perché ancora lo sto tenendo un po' in disparte. È come se il mio fuoco, diciamo la parte più importante del mio lavoro è quella con King Caleri. Poi ho dei momenti dove forse ho qualcosa da dire, che sento che non posso condividere fino in fondo perché forse sono delle cose molto personali e allora ho trovato questa sorta di forma per poter fare. E, però è molto circoscritta, cioè non faccio tantissime cose, per esempio, da solo, sono più e ultimamente lavoro molto con i disegni oppure piccole installazioni. Però insomma sono sempre cose anche abbastanza fisiche che però poi niente, sono lì, c'ho un sito, ma insomma stanno lì da una parte e prima o poi cioè, avranno il loro tempo anche. Y no son performativos, son más instalaciones. Sono soprattutto installazioni o semplicemente delle cose in mostra, proprio dei disegni. Ultimamente ho lavorato molto per dei disegni per dei piccoli libri, delle riviste, oppure in galleria sono proprio degli oggetti. Lavoro poco, ho fatto pochissime cose un po' più performative. Però sempre con un'altra finalità, di creare un oggetto. Quindi tutte le cose performative che ho fatto fino ad oggi, hanno sempre creato un oggetto che poi rimane in mostra. Cioè, mentre il lavoro di King Caleri può essere anche proprio il corpo e basta. Quando lavoro per conto mio, per ora non sento la necessità di lavorare dentro la performance, proprio nel senso più tradizionale. Un po' perché così è molto più chiaro il mio posizionamento. Per un po' di tempo è stato abbastanza complicato per me capire dove finiva Marco e iniziava King Caleri o viceversa, perché chiaramente King Caleri si nutre di ognuno di noi, quindi anche di cose molto personali. Per esempio, io disegno molto per King Caleri, mi occupo tanto anche di parte visiva, come altri, però molte volte l'estetica che propongo da solo è molto simile all'estetica che propongo con King Caleri, quindi cambia però il soggetto. Allora mi ci è voluto un po' di tempo, ma è nel momento che mi è stato chiaro dove finisce Marco e inizia King Caleri, tutto si è molto tranquillizzato. Adesso, per esempio, sono molto, come dire, sono molto in pace nel sapere quando appunto inizia un'altra cosa. Muy bien. Quería hacer algunas preguntas. Mira, este es un libro que se ha editado en Berlín, Okay. que pertenece. es la escena musical la que lo he editado. ¿Sí? La escena musical desde la caída del muro, una escena musical experimental que ha estado en activo muchos años hasta ahora, y hace 3 años o hace a lo mejor 4 años se empezaron a reunir para un poco para tomar conciencia de todo lo que habían realizado durante todo ese tiempo, ¿no? Sí. Para quizás hablar sobre ello o elaborar un discurso o una narración de lo que había sido la escena musical berlinesa. Ok. Y bueno, después de mucho tiempo, porque empezaron haciendo reuniones y hasta que pensando que a lo mejor podrían elaborar unos cuadernos, algo como unos documentos pequeños, ¿sí? Okay. Sobre toda su labor. Y al final la cosa fue tomando amplitud y al final han editado este libro, ¿no? Este libro, ok. Y entonces hay en una parte hay 27 preguntas que se ¿sí? hacen a ellos mismos. A ellos mismos no, a la escena musical. Ok. Y entonces hoy lo he traído porque me apetecía... plantear alguna pregunta a la persona en la conversación que tenemos. Sí. Entonces te voy a plantear. ¿Puedes hacerme una pregunta de queste? Sí, eso. Okay, eso okay. Es. Sí, sí, no, era. 113. Porque me parece interesante, porque esto interroga la escena musical, ¿no? Que es también performativa, pero cierto, no es la cierto. Escena del contexto de la danza. O... Sí, sí, sí. Y entonces me parece interesante a veces cuando preguntas no directamente la cosa, certo, sino certo. A través de otra, ¿no? Sì, sì. Entonces es como más... Fra l'altro, ultimamente abbiamo anche fatto diverse cose musicali. Abbiamo anche fatto un piccolo concerto. Adesso, in questo ultimo progetto che stiamo facendo adesso, che si chiama Hall, ogni performance anche lì analizza delle parti di un autore come che è William Burroughs, e che è diventato non tanto il soggetto ma una sorta di compagno di viaggio, quindi attraverso il pensiero, attraverso gli scritti, attraverso proprio la filosofia che ci sta dietro il lavoro di Burroughs, abbiamo iniziato a elaborare una serie di performance molto diverse a volte da di loro, e la prima che abbiamo fatto è stato proprio un concerto dove siamo io e Massimo per 30 minuti, un concerto su delle basi proprio musicali che nessuno di noi due è un professionista, nel senso non siamo musicisti né cantanti, però abbiamo deciso di far funzionare il meccanismo musicale per fare questa performance. Quindi può essere anche interessante l'idea della domanda dal campo musicale per... Y dices William Burroughs, el escritor, ¿eh? Sì, sì, sì, lo scrittore, sì, sì, certo, certo. E adesso sul lavoro di lui in realtà stiamo elaborando proprio tutto un lavoro sulla scrittura, ma non scrittura scritta, ma il linguaggio del corpo. Quindi abbiamo praticamente individuato per ogni lettera dell'alfabeto un segno, un gesto, soprattutto della parte superiore del corpo, e i due danzatori che stanno lavorando con noi, gli viene dato dei testi, proprio dei testi scritti, e loro imparano il testo a memoria e poi fanno la danza, diventa il gesto, perché loro dicono le parole ma senza dirle, solo attraverso il gesto, e quindi a seconda di come li posizioni chiaramente cambiano i segni, però stanno proprio dentro a un'idea di scrittura molto precisa, che è quasi, come dire, un nuovo codice che permette però di comporre coreograficamente, partendo da una parola molto specifica, per arrivare invece a una gestualità molto astratta. E questo è per esempio un'altra elaborazione che stiamo mettendo in atto ora, fra appunto la parola detta, la parola quindi detta e scritta, e invece il rapporto del corpo, quindi non è più interpretazione ma è proprio trascrizione. Esatto, trascrizione dentro un'altra forma. E poi chiaramente è più complicata, perché tutto questo linguaggio nuovo è soprattutto strutturato sulla parte superiore del corpo. Quindi nel momento che tu tu costruisci i vari livelli del corpo, tipo se fai passare da essere in piedi a andare a terra, anche la gestualità nel dover fare tutti i segni per parlare deve trovare una nuova forma per farli, perché hai bisogno di cambiare. Se sei sdraiato in terra devi girare il corpo, quindi veramente si modifica continuamente, e è un lavoro che passa tutto nella testa, perché è molto cerebrale per il danzatore, però poi il risultato è molto fisico, estremamente fisico, che è un po' quello che su Barrocks abbiamo appunto un po' elaborato, questa sorta di fisicità proprio della parola, che nella sua analisi, nel suo rapporto molto analitico, poi in realtà invece è una parola sempre pesante, quasi dichiarante, cioè che si prende proprio delle responsabilità di quello che dice. Può essere visionario, ha scritto cose molto diverse. Lui è passato da cose molto narrative a cose molto visionarie o cose astratte. Per esempio, tutto il lavoro sul cut-up di Barrocks è un lavoro che non è come se non trova più il senso, e la parola diventa fondamentalmente suono, perché lui prendeva, insieme a Brion Gissin, prendevano dei testi, li tagliavano in due e li attaccavano, quindi tu a un certo momento entravi in un altro racconto e poi ritornavi nel racconto precedente. Però era, e questo è tutto un'idea del cut-up, del lavoro proprio della ridefinizione della parola, e quindi Barrocks riesci, se cominci a leggerlo, a trovare veramente tante sfaccettature. E poi è un personaggio che è sempre stato al centro di una scena, perché è stato preso veramente come riferimento per tutta una scena, sia musicale o alternativa, però lui ha sempre vissuto molto in solitario, ai margini, cioè uno che si è sempre poi chiuso, capito? Aveva questo suo spazio, questa sua casa, dove la gente andava a trovarlo più che, e quindi è una figura molto interessante, poi soprattutto insomma in questo momento dove appunto c'è bisogno di voci contro, fondamentalmente. Bueno, ma ora scusami, non volevo portarti via il tempo alla domanda. No, sta muy bien che okay. Va por donde va. Espera, siento. Entonces, no te voy a hacer 27 preguntas, ¿eh? No, va bene. Pero solo alguna. Speriamo non sia difficile. Entonces, yo voy a, te la formulo con hablando de música, porque aquí siempre hablan de música y tú la entiendes hablando en tu dominio, en nuestro dominio. Sí, o no sé si en el dominio de Quincalerí o en el dominio de la creación contemporánea, escénica. So, to what degree is this kind of music experimental? Che cosa voglio capire, che cosa mi piace o con cosa sono d'accordo? No, a qué nivel crees que lo que hacemos, que bueno, que lo que hacéis vosotros en Quincalerí o tú en tu trabajo o nosotros en Impresentables es experimental. Ah, ¿qué cosa es experimental? No, to what degree? Ah, ¿quale livello? Sí. ¿Qual è il livello a livello per, cioè, in generale? Sí. Sperimentale. Allora, io credo che il livello della parola sperimentale, io credo che abbia molto a che vedere con una, come dire, è un po', l'associo molto al radicale io, lo sperimentale, perché è come se si individuasse una cosa e si portasse all'estrema conseguenza, cioè nel senso che uno non si pone il punto di vista, cioè non si pone il punto di vista di mercato, appunto di cosa potrebbe essere chiaro anche per l'altro, ma è come se una domanda che uno si pone e la lascia andare, cioè è come se cercasse. No, non è chiaro, ora cerco di rifarla perché sì, tranquillo, non tranquillo. Perché sennò poi diventa più confusa. Pero bueno, es interesante lo de que lo asocias a radical, me hace pensar concretamente en lo que hacemos en Black Market. Certo, no, ma è vero, perché sperimentare è come dire andare in una direzione che non conosci, sì, e che in qualche maniera ti interroga per capirne veramente la sua potenzialità. Quindi quando... E questo vuol dire che magari lo sperimentale per me magari non è lo sperimentale per un altro, perché magari quella domanda se l'è già posta e ha già risposto. Quindi lo sperimentale è anche molto soggettivo rispetto, anche rispetto al momento storico in cui viviamo. Quindi oggi, per esempio, mi rendo conto che parlare di sperimentazione è qualcosa di sempre più difficile, perché dagli anni 60 a oggi è stato sperimentato tantissimo in rapporto anche con la scena. Quindi ogni volta devi un po' ridefinire questa parola, e il momento storico o il luogo dove ti trovi, perché è come se dover rispondere a delle esigenze, a delle esigenze legate appunto anche al mercato a volte, perché sono anche quelle delle esigenze che determinano, per esempio, la scelta di un soggetto piuttosto di un altro. E la radicalità per me ha un po' questa funzione qui, quando quell'oggetto viene preso e viene messo lì, è come se te tirassi un sasso e qualsiasi posto cade, devi semplicemente riflettere su quel percorso, senza poi cercare di tirarlo più da una parte o tirarlo dall'altra, ma è semplicemente quello che succede. Questo credo che sia un po' la radicalità, cioè quando non ti poni fino in fondo la risposta, cioè, capito? E quindi è semplicemente qualcosa che metti in campo. Quello io credo sia, se vuoi, il rapporto un po' radicale con le cose. Boh. Non so che cosa. Sì. Spero di non risentirmi. Questa. Qui non ti darò il permesso di pubblicarla. No, perché me ne vergognerò. Non si preoccupi. Però sta bene farlo, luego ya vemos. ¿Crees que este tipo de música es solamente para especialistas y músicos? Ok. Yeah. Allora, io credo che invece lo spettacolo non debba essere solo per gli specialisti. Credo che oggi ci sia invece la necessità di fare dei discorsi specialistici, però che nel momento che si trasforma sulla scena deve emergere qualcosa, perché abbiamo già visto troppe cose solo per gli specialisti, e quindi credo che a un certo momento ci si deve proprio sbarazzare del pensiero e lavorare sul risultato. Pensiero che... il pensamento. Quindi il pensamento è importante per formulare una domanda, per formulare uno spettacolo, una performance, però poi quello che è importante veramente nel momento che ti rapporti alla scena è quello che si vede in scena, quello che si vede, e per questo motivo quell'oggetto deve a qualche livello poter parlare a più persone possibile. Poi ognuno avrà il suo bagaglio culturale per interpretarlo e per vedere gli strati del lavoro, però quando è troppo chiuso diventa un po' troppo ermetico, e allora diventa veramente solo per chi è pronto, e invece insomma non può essere più così. E per esempio te pregunto a ti, che conosces más che io, però el trabajo de William Barros, por ejemplo, ¿ha podido ser hermético en algún momento o tú crees que no? Para no, ti no. No, può essere ermetico alcuni lavori, perché magari quelli forse sono quelli fra virgolette più sperimentali, però ha una forma quasi sempre fantastica che permette a più livelli di entrare dentro. Ha lavorato moltissimo sulla narrazione, quindi magari chi studia Barrocks capisce la struttura letteraria, ma chi lo legge semplicemente legge la storia, e quindi ci sono veramente più livelli che stanno dentro a quel lavoro e che lo permettono di essere molto più universale, cioè è meno chiuso, capito, in qualche cosa. E poi è chiaro che l'interpretazione è anche molto soggettiva, perché io magari mi posso semplicemente muovere di una foglia che si muove e un'altra persona dice boh, la foglia, sì, una foglia, capito? Quindi quella è anche un po' la soggettività, il rapporto con la sensibilità che ognuno di noi ha. Però in generale, se io quella foglia la inquadro bene e te la faccio vedere, magari parla anche a te, parla anche a te che non ne sai niente di quel rapporto lì, perché magari c'ha qualche cosa, c'ha un movimento che riesce a comunicarti qualcosa. Is music a language or something beyond? Is music a language? Sì. O è qualcosa che va oltre, quindi è qualcosa che va oltre, sì, è qualcosa che va oltre, perché cioè è indubbiamente un linguaggio, ma che coinvolge una serie di sensi che lo travalicano. E nella musica a volte è anche molto importante. La musica è anche un esempio molto chiaro di come viene travalicata, perché se pensi a tutta la musica inglese, in lingua inglese, per molte persone è un suono, non ha neanche un significato la canzone, e quindi la travalica completamente. Yo muchas veces me pregunto que de qué manera afectamos la realidad o el público. Sí, en qué grado es, o sea, por supuesto, en qué grado es importante aquella pieza que vio o que no. Yo creo que efectivamente mi experiencia personal es que es muy importante, o sea, es todo lo que te va construyendo como persona, ¿no? Lo que has Cierto. Visto, lo que consumes, lo que... Pero, no sé, esta pregunta te interroga a ti también, lo de cómo afecta, cómo... O te sientes a veces... fuera della realtà o... No, io mi sento estremamente dentro la realtà, cioè proprio dentro al mondo di oggi, e in qualche maniera anche il lavoro di Kincaleri parla esclusivamente del mondo dove viviamo, quindi qualsiasi soggetto, qualsiasi riflessione che mettiamo in atto è veramente rispetto a quello che conosciamo e che ci circonda. Sia dagli immaginari, quindi per esempio anche a livello di immaginario prendiamo moltissimo dalla quotidianità, perché è quell'elemento che ancora può fare la differenza, cioè spostare l'attenzione, mostrare un oggetto di uso quotidiano e rivestirlo di un altro senso. Quindi è molto importante, diciamo, il contesto che ti circonda. E non si può fare altrimenti, perché altrimenti, non lo so, forse non potrei considerarmi un artista, non lo so come dire, perché credo sia sempre estremamente in relazione al mondo che ti circonda, l'idea della creazione. E quindi, di conseguenza, anche in scena credo che si debba provare a comunicare certe cose, anche se poi non sono la finalità. Per esempio, dal mio punto di vista, io non mi pongo mai il problema dell'effetto che posso avere su un pubblico, mi preoccupo di essere molto chiaro o onesto con un pensiero che posso avere. Però poi l'effetto spero ci sia, ma non è il soggetto della mia preoccupazione. Cioè, credo che negli anni l'esperienza mi possa far a volte intuire dove posso mettere il fuoco delle cose, però non so se veramente quello è l'effetto che posso, capito, provocare. Considera che un'altra degli elementi di Kinkaleri per tanto tempo era la molteplicità di interpretazioni, per esempio. Per molti anni, ma tuttora, a volte capiamo che è qualcosa che ci interessa quando possono esserci più letture dentro quell'oggetto. Quindi, e quando diventa solo una cosa, e quando diventa troppo. Non è che è troppo chiara, ma è come se chiudesse troppo all'interpretazione, capito? Allora più il segno si apre e quindi può in qualche maniera coinvolgere più pensieri che lo guardano e più credo sia efficace. Non so, credo di averti risposto più o Sí, meno no, alla. es muy interesante esto de no pienso en el efecto, pienso más lo que a mí me preocupa es más bien has dicho la honestidad y algo más. Sí, perché sai, Eso. è importante quando elabori un pensiero, che specialmente quando un pensiero viene elaborato in maniera che determina il lavoro stesso, è importante che non giochi sporco, che non fai dei trucchi, perché i meccanismi della scena sono molto chiari e si possono molto anche studiare a tavolino, perché un senso drammaturgico. Allora, quando un pensiero determina la messa in scena di qualche cosa, è molto importante stare dentro a quel pensiero. Allora, quella secondo me è la preoccupazione principale, piuttosto che pensare già all'effetto che avrà. Sì, la prima parte era meglio. La prima La parte. prima parte era meglio Mejor, di ora, mejor. di quella che ho detto ora, la seconda. Sì. ¿Esta es la segunda? No, quella prima. La primera Sì, respuesta. no, non la No. prima risposta. Ora, I try to explain again, Yeah. and it was And better. it is worse. Yeah, Yes. No, was no, no, really. because the first one it was really clear. No, no, don't try to explain again.